Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Spesso abbiamo la percezione di vivere nell'epoca digitale per alcuni impercettibili e improbabili segnali che non derivano certo dalla nostra volontà di essere adeguati ai nostri tempi. Partiamo da un esempio molto crudamente realistico. Da oggi ai giorni a venire si parlerà soprattutto di maturità, sì, perché questa è la notte, la grande notte prima degli esami, in cui gli studenti danno il massimo di se stessi per essere pronti e preparati per questa prova iniziatica della contemporaneità che è la maturità. Cari ragazzi, 40 anni fa, in questi giorni, anch'io ero nelle vostre condizioni. Ricordo che erano giornate particolari, anche di una certa tensione, ma vi assicuro che dopo il primo giorno tutto si rallenta, tutto diventa normale. Pertanto vorrei dirvi, prima di tutto, in bocca al lupo. Sono certo che durante l'anno avrete studiato il dovuto, che a questo punto l'esame diventa solo... Questo è il fantastico e romantico pistolotto del ministro dell'istruzione Francesco Profumo, che si rivolge agli studenti, cioè mi ricordo anch'io come voi bei tempi. Sì, infatti, questa mattina ho messo sul profilo Facebook di Melog Radio 24 l'argomento del giorno e tutti cominciano a ricordare con grande nostalgia quello che è stata questa notte. Era una notte di preparazione anche fisica, anche dedicata a sovrascritture corporee, in cui il frutto di quello che si presupponeva e si immaginava fosse il succo importantissimo per la prova di domani veniva trascritto sul corpo. Bei tempi quelli delle cartucciere, ricorda Marileda, un altro dice rotolini stile papiro che si srotolavano grazie a un elastico che si teneva nella giusta posizione, oppure non ragionavamo, ci mettevamo ora a prepararli praticamente studiando la materia mentre si compilavano, era una semplice ancora di sicurezza. Insomma, iniziava l'intersezione del corpo umano con alcuni elementi estranei, alcune protesi che avrebbero permesso di superare in sicurezza l'esame, quindi cartuccelle, tatuaggi, doppio elastico nelle mutande, tutto quello che ci si poteva dotare per avere un plafond di sicurezza che nei momenti di horror vacui qualcosa ci avrebbe supportato. I tempi però sono leggermente cambiati. Maturità 2012. Secondo un sondaggio di studenti.it realizzato in collaborazione con SVG e a cui hanno partecipato 1418 giovani, il 63% degli studenti che affronteranno la maturità cercherà di tenere un cellulare con sé per comunicare con l'esterno. Alla domanda «Seconda prova di maturità, qualcuno cercherà di aiutarti dall'esterno?» il 47% dei maturandi ha risposto di sì. Cercherà di tenere con sé un cellulare per cercare autonomamente tracce e soluzioni sul web. Per il 10% degli intervistati, il cellulare servirà a comunicare con un familiare all'esterno, mentre per un 5%, dall'altra parte del telefono, ci sarà un amico. Il 37%, infine, conterà solo sulla propria preparazione. Gioco forza! La protesi emotiva di cui ogni essere umano, e soprattutto in maniera particolare ogni essere umano che ha avuto l'avventura di nascere, vivere e soggiornare alle nostre latitudini, è iperdotato, diventa lo strumento che in sé assorbe tutte le facoltà e tutte le potenzialità delle vecchie cartuccelle, del messaggio e del tatuaggio intimo, dell'intrusore intimo con dentro contiene la capsula con tutti i temi, della scrittura nei bagni, dei graffiti nei luoghi innominabili, insomma, con un telefonino, con un tablet, con uno smartphone, si arriva dappertutto. Il problema è che questo naturalmente lascia dei segni, questo è possibile che possa essere intercettato. Questa catena di solidarietà tra chi al di fuori è pronto a corrispondere e a dare soluzioni, chi al dentro è pronto a comunicare, in qualche maniera può essere interrotta. Perché? Perché diciamocelo chiaro, la maturità è una guerra, è sempre stata una guerra tra guardie e ladri. le guardie sono i professori e i ladri siamo stati noi. Noi che dobbiamo supplire la nostra mancanza di sicurezza, la nostra carenza di preparazione con dei sistemi. Ma i sistemi, gli escamotaggi, i trucchi, molte volte fanno parte del clima stesso. Molte volte si fa perché è più divertente farlo, perché se non si facesse non ci si sentirebbe coinvolti in questa prova importante. 800240024. Cosa ricordate delle vostre maturità? Quali erano i trucchi? E cosa sapete dei trucchi odierni e contemporanei? Qualcuno però, naturalmente, non dorme. Se i ragazzi fanno passi avanti e specializzano la loro capacità di turlupinare, di truffare, di copiare o di farsi aiutare in maniera impropria, anche chi è preposto alla tutela, all'istruzione dei ragazzi, non sta certo a guardare. Professor Giorgio Rembado, buongiorno. Buongiorno. Il professor Rembado è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Il professor Rembado si è fatto portatore di un'iniziativa, ha chiesto al ministro dell'istruzione Francesco Profumo di provvedere all'acquisto di alcuni strumenti elettronici atti a rilevare la presenza di telefoni cellulari, tablet e via dicendo, anche in stand-by. Come le è venuta questa coraggiosa ma necessaria iniziativa, professore? Lei mi presenta nel modo peggiore possibile in questa circostanza. I fatti sono questi. Per questo oggi lei ci interessa. I fatti sono sicuramente questi e assolutamente non faccio nessuna ritrattazione, anzi. E perché viene in mente la cosa? Ma naturalmente noi spesso ci sciacquiamo la bocca nell'ambito della scuola della necessità di educare alla legalità e soprattutto sottolineiamo come la formazione alla quale, l'educazione alla quale siamo preposti come tecnici dell'istruzione debba contribuire a formare un soggetto, un uomo, una donna completi che abbiano come punti di riferimento l'onestà. È evidente che tutto questo poco ha a che fare anche con le tecniche vecchie e nuove alle quali lei faceva riferimento nella presentazione. Che ci sono sempre stati, professore. Già mi hanno scritto un ascoltatore, Nicoletti, lei sta facendo uno squallido elogio della disonestà e la meritocrazia va in vacca, complimenti. Io registro una situazione, ho fatto anch'io la maturità, mi sono anch'io tatuato ovunque, anch'io ho portato le cartuccelle, non ho detto che fosse bene. Faceva parte delle liturgie dell'esame, lo facevano anche i primi della classe. Non dico che sia giusto, che sia corretto, non sto istigandolo. È chiaro che oggi con un cellulare in tasca, con uno smartphone, tutto questo non è più necessario perché l'unico problema è riuscire a portarsi il telefonino in un luogo in cui sia acceso, funzionante e consultabile. Prego, professore. Sì, dal momento che credo che nell'ambito della formazione di un individuo la cosa che conti di più sia la coerenza e noi se sosteniamo certi principi poi dobbiamo essere conseguenti e portarli fino all'estremo. Non potete far finta di non sapere che in realtà oggi nessuno si fa più tatuaggi addosso ma cercano di tenere in un luogo accessibile un cellulare acceso, a turno vanno a consultarlo e dall'altra parte c'è qualcuno già pronto con le versioni. Beh, se così fosse dovremmo cambiare completamente la struttura dell'esame e dovremmo cercare di immaginarci, di inventarcene uno completamente diverso che evidentemente tenesse conto di altre capacità, di altre abilità. Voglio dire una cosa che a me dà fastidio, ma cosa dovremmo premiare? La furbizia? No, assolutamente. Io trovo che sia giusto che voi vi attrezziate. I tempi sono cambiati. Ai nostri tempi c'erano esami corporei molto attenti e ci guardavano in tasca, cioè prima, giustamente lo facevano perché almeno in quel momento deve esserci un principio di legalità condiviso. Se l'esame è un esame, se la prova è una prova, se io mi porto le versioni scritte addosso, è chiaro che inquino i risultati della prova. Oggi vale la stessa cosa, nei concorsi pubblici non credo che si possa portare dietro un cellulare, le aule sono realmente schermate dove si fanno i concorsi pubblici, lo stesso è giusto che valga anche per le aule in cui si fanno gli esami. E oltre a questo, sicuramente, su questo sono assolutamente totalmente d'accordo. Mi faccia fare però un'altra analogia. Noi spesso lamentiamo, e a mio avviso giustamente, di essere un paese che anziché premiare tra virgolette il merito, che è questa araba fenice che è difficile anche da poi da definire nella realtà concreta delle cose, cerchiamo sempre delle scorciatoie per arrivare al risultato, che può essere il posto di lavoro, che può essere... Certo. un risultato migliore nelle prove d'esame, nei concorsi pubblici, eccetera, eccetera. Ecco, quella della tecnologia oggi, come delle cartuccelle a cui faceva riferimento lei prima, ieri, vantieri e qualche decennio fa. Stanno scrivendo delle cartucciere che addirittura le confezionavano madri e nonne. Le madri e nonne facevano le famose cartucciere da metterci sotto le mutande per metterci i bigliettini. Sono cambiati gli strumenti, ma diciamo così gli obiettivi sono analoghi. E fa parte di quel mondo che noi cerchiamo di lasciarci dietro le spalle per essere sempre più europei, per essere sempre più moderni, per far sì che vadano avanti le persone che hanno le qualità, le caratteristiche, le competenze adatte per affrontare il gioco della vita nel migliore dei modi. Allora, da questo punto di vista non si può fare il discorso della doppia verità. La verità anche in questo caso, a mio avviso, una e una sola deve essere, magari quella convenzionale, però come dicevo prima, ma se la convenzione è quella che dobbiamo valutare veramente le capacità e le competenze acquisite, bisogna farsi tutto. Andiamo al punto pratico, professor Rimbardo. Allora, le hanno risposto, questi dispositivi da domani saranno nelle aule o ancora è rimandato all'anno successivo? Se non si attrezzano le scuole e le commissioni, sì, mi faccia rispondere che glielo sto per dire, se non si attrezzano direttamente le scuole e le commissioni, io dubito che il Ministero si sia mobilitato per questa battaglia e questo può essere diciamo la conseguenza di tante cause, non ultima probabilmente quella delle difficoltà economiche in cui si dibatte il nostro paese. E quindi se lo va a comprare da solo oggi pomeriggio e lo applica? No, ci sono scuole che sono già attrezzate, quelle più tecnologicamente più avanzate, che sono già attrezzate oggi, insomma non è che ci sia la possibilità oggi pomeriggio di installare la macchina, lo strumento, Poi sentiremo un esperto, ci dirà in cose, esatto, però non sono strumenti di grande, non costano tantissimo. No, per fortuna no, quindi tutto insomma io non sono un tecnico del settore, quindi abbiamo un tecnico pronto a risponderci. Forse è meglio che passi la parola, perché potrei su questo dire delle cose inesatte, involontariamente naturalmente. Però è chiaro che compatibilmente con le risorse delle scuole, le scuole che sono enti autonomi potrebbero anche provvedere. Quindi lei dice giustamente, non possiamo fingere di ignorare che in realtà la prova d'esame è pesantemente inquinata dallo sviluppo della tecnologia digitale. Non facciamo finta che non esista. Non è detto che dobbiamo essere noi poliziotti, però almeno mettere le aule, mi faccio interprete del suo pensiero, nelle condizioni che non possono essere usati impropriamente questi mezzi, bisognerebbe farlo per dare a tutti lo stesso punto comunque di partenza rispetto a un esame, perché poi ci sarà anche lo studente più attrezzato, con più disponibilità economica, che ha il telefono di ultima generazione, si è scaricato le applicazioni utili, l'altro che non ce l'ha comunque sia s'arrangia. Mentre diciamo che il pizzino era molto democratico, la sovrascrittura carnale fatta con la penna biro era alla portata di tutti, qua c'è già un grosso discrimine anche di tipo economico, i più fighetti, i più facoltosi avranno il cellulare più attrezzato, più piccolo, più funzionale, più moderno e avranno un punto di vantaggio anche nella truffa. Sentiamo Massimo, buongiorno. Buongiorno. A me è capitata un'esperienza all'esame di Stato molto particolare. Io ero molto bravo nelle materie, diciamo, letterarie, ma frequentavo un istituto tecnico agrario, tra l'altro, e quindi essere bravo nelle materie letterarie era un po' non veniva considerato molto, mentre veniva considerato il bagaglio culturale dei miei compagni, spesso figli di imprenditori di aziende agricole che conoscevano alla perfezione quanta semente doveva andare nei campi, quante balle. Io non avevo proprio idea di questa cosa qui e non me ne poteva nemmeno fregare di niente. E quindi niente, praticamente prova, diciamo, di tema, quindi prova scritta, tutto a posto, e poi sapevo che sarebbe stato un grande fallimento la prova tecnica. Che ci vuole fare il tema, è facile. Naturalmente. Arriva la prova tecnica, il pomeriggio prima appunto della prova scritta tecnica, incontro un compagno di scuola, il quale mi dice, senti, ma il prontuario allora come va, l'hai preso, non l'hai preso? Dico prontuario. Pensa, ma nemmeno cosa fosse un prontuario. No, assolutamente. dico, ma prontuario, ma, beh, ma guarda che quello serve per l'esame, devi prenderlo assolutamente. Insomma, mi reco a una cartoleria, insomma, questi che vendevano anche libri, e dico, guarda, a me serve così così un prontuario. E lì il negoziante, che non era sprovvisto in quel momento, mi dice, guarda, eccolo qua, prendi questo. Io, non avendo idea proprio di come fosse fatto, dico, ma c'era scritto prontuario. Non era quello che lei serviva per l'esame? No, io pensavo che fosse il prontuario, appunto, quello classico. Poi, recandomi la mattina dopo a fare questa prova, mi accorgo che praticamente il mio prontuario era completamente diverso dagli altri. Non serviva. Cioè, praticamente era un libro che spiegava come usare un prontuario con tutti gli esercizi vari, diciamo, con i vari esempi. Io ho trovato uno schema, un esercizio precisamente, ma bastava cambiare soltanto qualche piccolo dato, dell'esame di Stato, identico. Passavano i professori a controllare i banchi, leggevano naturalmente prontuario e pensavano, beh, sarà un prontuario diverso dagli altri. Era invece praticamente un libro. Quindi lei aveva per botta di fortuna preso proprio l'unico libro proibito che le sarebbe stato utile. Sì, tra l'altro. Era un po' come noi di formazione classica, il proibitissimo Pechenino, che era il manuale con i verbi irregolari greci che non si poteva portare, grazie. E tra con l'altro quello... io i primi 20 minuti li ho passati proprio pensando, vabbè, io qui non scriverò niente. Che non. Quindi la fortuna aiuta gli audaci e gli sprovvisti. Sì, ho girato pagine, a un certo punto ho detto, ma qui ci stanno le cose già... Grazie, sentiamo Paolo. Paolo ci porta un'esperienza diversa. Paolo, buongiorno. Sì, pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Ma la mia esperienza si rifà una ventina d'anni fa negli Stati Uniti, dove mi recai per andare a fare un esame per una licenza di volo professionale con un collega. Sì, che non era proprio la maturità. Cioè, lì... No, allora guardi, io la maturità... Lì la competenza era piuttosto utile. In tutti gli esami della mia vita ho sempre copiato, ho costruito foglietti, macchinette, ero un esperto, lo facevo anche... Guarda, posso dire una cosa? La dico adesso, mi sgavio la coscienza. Io anche gli esami all'università, le prove scritte, ho trovato un sistema favoloso, lo posso dire, ormai non mi valideranno la laurea. Ormai in prescrizione. Sì, invece che copiare, e vi ho scoperto che i temi, allora, i compiti, soprattutto quelli, gli esami scritti in lingua, venivano fatti su della carta bollata che veniva presa dall'istituto. Io mi ero procurato un po' di fogli ufficiali dell'istituto che faceva l'esame, c'erano tutti questi fogli. Io prescrivevo completamente la prova prima, soprattutto il tema che era fatto, me lo facevo con calma, a casa, scritto, tradotto e via dicendo. Fingevo di fare il tema per tutta la durata dell'ora e poi consegnavo quello che mi ero fatto a casa. L'importante era il supporto. Io lavorai sull'hardware invece che sul software e, diciamo, ottenni buoni risultati. Fantastico. Prendi. Ecco, quindi noi ci recammo a fare questo esame che era un esame individuale su dei supporti informatici. C'erano dei computer su cui si svolgeva singolarmente l'esame. E già fummo cazziati dalla cameriera di un bar dove andammo a fare colazione. Lei pensi, già la cameriera ha detto, cosa fate? Stavamo preparando i foglietti e questa ci ha visti e ci ha cazziati. Pensi un po'. Subito in prima battuta. Poi andammo a fare l'esame e nell'aula con noi c'erano altre 5-6 persone che facevano altri esami, non so se esattamente della stessa materia. E noi, cercando di comunicare per rispondere ad alcune domande, fummo redarguiti non dalla segretaria che stava al di là di un vetro, ma da altri concorrenti all'esame. Però lo sa che quello che dice lei è sintomatico rispetto a ciò che diceva appunto Giorgio Rembado. Esisteva lì un clima generale che considerava con riprovazione e con disprezzo l'attività truffaldina. Da noi, e forse io stesso mi sono inconsapevolmente fatto portatore di questa deleteria idea, da noi c'è quasi un clima complice, sembra quasi che tutti siamo contenti e tutti consideriamo una grandissima paraculata fregare agli esami. Lì addirittura negli Stati Uniti la cameriera del bar ha detto, ma cosa state facendo? Era indignata dai ragazzi che preparavano i bigliettini. Qui abbiamo delle organizzazioni familiari con mamme e nonne che nei decenni passati confezionavano le cartucciere da mutanda e oggi probabilmente regalano lo smartphone al fanciullo dicendo, tieni, così almeno darai gli esami in sicurezza. Gli ascoltatori mi stanno suggerendo altre strade laterali, ben più subdole. Mi viene suggerito il fantomatico orologio bigliettino che non emette onde e quindi è facilmente consultabile. È vero, andate su Google, cercate orologio bigliettino e lo vedete. È un orologio con un display del quale può essere caricato qualsiasi testo. È un normale orologio, un bello orologione, grande, ma nessuno ci fa caso. In realtà dentro ha un piccolo software può contenere del testo, e quindi semplicemente guardando l'ora si guarda testo. E naturalmente anche questa possibilità non è stata ancora contemplata. Il professor Giorgio Rimbado è Associazione Nazionale Presidi Italiani, colui sarà fatto portatore di un'iniziativa che chiedeva appunto al ministro Francesco Profumo, del ministro dell'istruzione, di provvedere all'acquisto di alcuni strumenti elettronici per schermare i telefonini e gli smartphone dei ragazzi. Però vede, dai nostri ascoltatori già è venuta un'altra idea: come scherma l'orologio bigliettino, professore? Ma guardi, siamo tutti consapevoli del fatto che il contrasto, diciamo così, alla strumentazione ipertecnologica è un contrasto molto difficile, è una gara, è una guerra che senza quartiere. Senza quartiere, e che deve essere condotta però senza esclusione di colpi. Io aggiungerei però una considerazione conclusiva alle mie riflessioni di prima, puntando sul fatto che la maturità, che l'esame finale non è un episodio a sé stante nella carriera scolastica, e non è neppure un momento secondario, ma è il consuntivo, è la valutazione, la verifica definitiva di quello che il corso di studi primario e secondario ha lasciato nel proprio bagaglio culturale e personale. Ora, è evidente che nel nostro paese, lo dicevo già prima, chi trasgredisce viene visto con simpatia, perché il vero coraggio è il rispetto delle regole, e di coraggiosi in Italia probabilmente ce ne sono in tutti i campi abbastanza pochi. Ha sentito il nostro ascoltatore che negli Stati Uniti era stato addirittura rimproverato, esatto, dalla cameriera che vedeva che preparava i bigliettini. Esatto, non lo sapevo e l'ho sentito con molto interesse e anche con un po' di rammarico, perché queste cose fanno sentire profondamente la nostra diversità e la nostra difficoltà poi di confrontarci anche a livello internazionale con gli altri paesi del mondo. Per cui credo che anche in questo ci voglia davvero una modificazione culturale, che probabilmente purtroppo nel nostro campo è addirittura una rivoluzione culturale. È lo stesso discorso che si potrebbe fare nella lotta contro i trasgressori che non pagano le tasse, insomma, perché da una parte sono visti da alcuni come i furbi da imitare, dall'altra poi penalizzano tutti noi perché dobbiamo pagare anche per loro, e quindi in misura molto maggiore. È una questione di coerenza complessiva di sistema, bisogna vedere da che parte vogliamo andare, e naturalmente poi la scuola dovrà, come dire, fare riferimento al clima generale e agli obiettivi che un paese si dà per poter uscire anche. Comunque non le voglio aggiungere una nuova preoccupazione, ma lei cerchi orologio bigliettino, 1 GB di memoria perfetto per contenere le vostre foto e soprattutto i vostri bigliettini. C'è anche un lettore MP3 portatile, costa pochi soldi, può essere acquistato in internet, quindi occorre mettere un'ulteriore guardia anche per vedere che orologio portano i ragazzi. Grazie professore. Gioia Verena, buongiorno. Gioia Verena rappresenta studenti.it, che è uno dei portali più noti, forse il più noto, in cui gli studenti trovano dei punti di riferimento concreti per alleviare le loro fatiche o anche per trovare naturalmente indicazioni su come occuparsi. Vi siete occupati voi, Gioia, dell'orologio bigliettino, degli strumenti elettronici di sussidio agli esami? Io lavoro per studenti da una decina di anni, quindi ho visto l'evoluzione dei vari mezzi di supporto da esame, e ovviamente con l'arrivo degli smartphone c'è stato un cambiamento epocale, no? Non era più il bigliettino, non era più la cartucciera, ma era l'intero mondo in tasca. Infatti, riallacciandomi a quello che è stato detto prima, trovo che probabilmente l'esame non è mai cambiato formalmente, mentre il mondo intorno agli studenti sì. Quindi è una considerazione generale che andrebbe fatta, secondo me. Poi un'altra questione invece legata all'upgrade tecnologico delle singole classi, non lo so, io lo trovo un pochino, forse non è il momento adatto per parlarne, perché la scuola italiana ha decisamente problemi Però posso dire una cosa, il mio punto di vista velocemente. In realtà questi strumenti ci si accorge che esistono soltanto per reprimerli il giorno dell'esame. Se in realtà ci fosse un uso interessante, intelligente di tutti gli strumenti di interconnessione digitale, a iniziare dalla possibilità di impedire a un liceale di andare a scuola ancora con uno zaino di 30 kg che gli spacca la schiena, o l'obbligo di fare i compiti ancora a casa scritti a penna, perché l'insegnante non concepisce un compito scritto attraverso un software elettronico, se ci fosse una maggiore e più efficiente interscambio di uso di strumenti di comunicazione digitali fra scuole e alunni non sarebbero considerati soltanto l'oggetto di scassinamento della fiducia, è che in realtà si rendono conto che la scuola è ancora in un'altra dimensione, una dimensione medievale dal punto di vista della cultura digitale, quindi ne approfittano. Secondo me è giusto che gli esami vengano fatti in trasparenza e sicurezza, ma è anche vero che vengono considerati gli strumenti soltanto quando è il momento di reprimerli. Sì, sarebbe bello che questo stesso discorso venisse fatto anche a settembre, perché esattamente, perché io trovo che è un grandissimo peccato che i ragazzi vanno anni e anni a scuola e poi le scuole, per esempio, danno l'abbiamo chiesto proprio al ministro Profumo che abbiamo intervistato, circa solo il 30% delle scuole garantisce l'accesso a internet ai propri studenti, che significa comunque sempre il ragionamento di cittadini di serie A, cittadini di serie B, quelli che possono accedervi a casa, quelli che invece non hanno questa possibilità, e specialmente la scuola in teoria dovrebbe essere un punto di educazione a questi mezzi, ma non solo gli studenti, anche i professori. Sì, che sono indietro. Questo è, guarda, Gioia, sfondi porte aperte, ne abbiamo parlato più volte. In realtà si trova davanti un insegnante, un ragazzo al liceo, mediamente, non dico ovunque, per cui lo strumento che per lui è lo strumento di conoscenza e relazione col mondo viene visto come qualcosa di proibito. Ah, non, guai a te se mi fai il compito scritto con il computer, va scritto ancora a mano. Guai a te se lavori in rete, impossibile dire ti mando il compito via mail, te lo leggi tramite la mail, no, devi portare il foglio, come accadeva nei fantastici anni del libro cuore, e l'insegnante prende il pacco dei fogli, se lo porta a casa dopo aver mangiato la frittatina si mette sul tavolo di cucina, li corregge con la penna rossa e blu come una volta, e troviamo le macchie d'olio della frittatina dell'insegnante nel nostro compito. Poi mi dici un po' quali sono le applicazioni, voi ci sono delle applicazioni specializzate proprio per uso improprio in tempo d'esame? Sì, ovviamente ci sono applicazioni tipo che puoi consultare l'intero database appunti e cercare, se hai fortuna, che l'argomento trattato all'interno di un compito, della traccia, la puoi trovare all'interno di questo database. Oppure l'anno passato c'era il traduttore di latino. Ovviamente gli strumenti ci sono, ogni anno si moltiplicano, ce ne sono di ogni genere. Il punto è, io vorrei anche dire che comunque anche usarlo durante l'esame non è proprio la cosa più semplice del mondo, perché parliamo di strumenti abbastanza grandi e comunque parliamo di dover andare costantemente in bagno, cosa che io ricordo del mio esame non era così possibile, non potevamo fare la fila. Diamo questa notizia che forse non se ne sono resi conto, ma lo diciamo, anche durante l'anno tutte le versioni di latino comunque sono rintracciabili in rete, qualcuna pagando una piccolissima somma, altre addirittura gratuite, si trova tutto, basta mettere nel motore di ricerca due o tre frasi e la versione è rintracciabile. Se uno studente volesse non fare i compiti, potrebbe non farli tutto l'anno, perlomeno per alcune materie. Sì, ovviamente sì, nel senso che questi strumenti sono disponibili durante l'anno anche in misura maggiore, perché è un conto lavorare da uno smartphone, è un conto lavorare per esempio dal computer di casa. Sì, in casa. Quindi, in tutta sì, tranquillità, figuriamoci, passarsi la lezione è molto più facile. Fermiamoci un secondo, volevo soltanto iniziare con una battuta e poi entriamo più nello specifico con l'ospite Davide Cavacece. Davide Cavacece è titolare della Nucleotech, vende vari dispositivi tra cui il rilevatore di cellulari. Signor Cavacece, buongiorno. Grande lavoro per la sua ditta e per i suoi colleghi oggi. Sì, grande lavoro come sempre. Volevo aggiungere che comunque voi state parlando di telefoni grossi, insomma di telefoni, cose che diciamo è abbastanza facile scoprire. E invece realtà, lei ci dica il segreto qual è, non portano un telefono. Diciamo che ormai i telefoni vengono completamente celati perché si sono passati agli auricolari, ai micro auricolari che vanno dentro le orecchie. Quindi esattamente oggi cosa... Mettiamo il franti della situazione tecnologico. Come andrebbe a dare l'esame se lei potesse dare un malefico consiglio? Un malefico consiglio è un cellulare miniaturizzato dietro la schiena con una collana induttiva nascosta nella camicia più l'auricolare dentro l'orecchio. Visibilmente non ha nulla. Dovrebbe perquisirlo, ma avrebbe un cerotto dietro la schiena? Sì, ma diciamo, volendo si può mettere pure in altri punti. Potrebbe nasconderlo nelle intimità, diciamo. Sotto, ecco, esatto, sì. E lo mette nelle classiche mutande, una volta si mette la cartucciera. Sì, sì, e chi è che va a mettere le mani lì? Nessuno. Beh, sì, penso insomma che è abbastanza difficile. Sì. Avrebbe un rischio per le emanazioni elettromagnetiche, ma quello è naturalmente un rischio calcolato. Vi presento il nuovissimo apparato Fast Detector, progettato per servizi, diciamo, di bonifica, di levare la presenza di apparecchiature o telefoni cellulari o microspie GSM. Ora passiamo sulla sezione GSM e ci andiamo a regolare la soglia di azione. Ecco, io l'ho portata a 0,9-10 dB, ora sta cercando GSM searching. Facciamo una dimostrazione pratica, accendiamo un telefono, lo mettiamo in trasmissione e come vedete, come va in trasmissione, mi dice addirittura 800 24 0024. Questo è un video preso da YouTube di un signore che sta spiegando come funzionano questi apparecchi per rilevare un cellulare acceso. Se qualcuno ha un cellulare acceso nell'aula in cui si svolge una prova d'esame, un concorso, entra in funzione, un po' come la leggenda metropolitana del liquido azzurro che nelle piscine le colorano se uno fa la pipì nell'acqua, e se uno accende il cellulare subito suona. È il signor Davide Cavacece, che è titolare della Nucleotech, che vende appunto vari dispositivi, tra cui appunto il rilevatore dei cellulari, però ci dice: non siate ingenui, non è che portano il cellulare in tasca, sarebbe troppo facile. Esistono dispositivi miniaturizzati con un auricolare invisibile praticamente, che possono permettere di comunicare. Riprendiamo il punto con lei, Davide Cavacece. Quindi questo rilevatore, quello che viene chiesto dai ministeri, lei ce l'ha comunque a disposizione? Sì, ce l'ho, perché noi forniamo anche le agenzie governative, le forze dell'ordine, manager, insomma. E dove si usano questi strumenti di solito? Come funzionano? Beh, questi strumenti si usano, per esempio, nel caso nostro, interni alle aule. Si regola la sensibilità per fare in modo di non prendere, diciamo, rilevamenti esterni all'ambiente che vogliamo monitorare, e qualora un cellulare va in trasmissione, una qualsiasi trasmissione suona e, diciamo, le indica anche la direzione, quindi poi lei con lo strumento man mano si avvicina alla fonte trasmissione. Beh, è inquietante, capito? C'è una specie, si avvicina e individua il colpevole. Però non c'è altro sistema per capirlo. No, non ci sono altri sistemi, perché comunque un cellulare in stand-by, diciamo, che non emette onde elettromagnetiche, quindi comunque bisognerebbe utilizzare degli strumenti molto molto sofisticati che costano decine e decine di mila euro, quindi non è il caso nostro. Solo i bambini, sono i ragazzi ricchi possono farlo. Sì. Quindi lei, dire tutto sommato, per tranquillizzare i presidi a cui testa è Giorgio Rembado, potrebbe dire: vi diamo questi strumenti, perlomeno dai cellulari state tranquilli. Sì, beh, tanto più o meno è quello il rischio, perché con il cellulare si può dialogare con l'esterno, quindi assumere anche degli esperti che in tempo reale ci fanno far bella figura anche agli orali, ok? Quindi possono sentire le domande che ci fanno i professori, parlarci nell'orecchio in maniera che solo noi riusciamo ad ascoltare. Con l'auricolare, sì. E noi riusciamo a fare una figura. Quindi addirittura anche durante la prova orale è possibile. Sì. Auricolari non hanno fili, sono completamente invisibili, vanno dentro l'orecchio e si nascondono. Diciamo è quella pallina di ceramica che danno anche in televisione molte volte. Sì, solo che quella è 10 volte più grande quella che... Ancora, diciamo, più piccola di quella? Sì, assolutamente sì. Quindi quanto, diciamo, bonificare un'aula d'esame, quanto costerebbe allo Stato, per capire? Ma secondo me non conviene più che si dotano di dispositivi, perché comunque poi possono riutilizzarli nel corso degli anni. Quanto costerebbe comprare la macchinetta per... Guardi, un rilevatore vero, non un giocattolo, costa intorno a 1 miliardo di euro. Quindi con 1.000 euro per ogni aula d'esame risolverebbero sì, il problema? Sì. Per invece i sistemi che dice lei, non il cellulare, diciamo, ma il dispositivo elettronico nascosto, funziona alla stessa maniera? Sì, siamo intorno ai 500 euro per il microauricolare che si interfaccia in Bluetooth con il proprio telefonino, e adesso, diciamo, la novità sono anche gli orologi con nascosti i cellulari dentro, quindi sembra un comune orologio, in realtà c'è il cellulare all'interno. Quindi quello che bisogna intercettare naturalmente è l'emanatore di onde elettromagnetiche. Sì, la trasmissione che avviene. Sì. Grazie infinite. Rossana, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io ho fatto l'assistenza all'ultimo concorso nazionale per presidi, quindi sono stata incaricata di questa cosa. Pensavo che dovevo stare attenta a non far copiare. Anche i presidi copiano? Anche i futuri presidi copiano i maturandi. Sì, ma non se ne esce più a questo punto. E il problema è proprio questo, quindi praticamente a parte ci hanno detto che non potevamo chiedere di consegnarci i telefonini. Perché non potevamo? Eravamo autorizzati. Quindi andavano i presidi, tutti parlano bene e bazzicano male, cioè loro vanno col telefonino a dare l'esame. Sì, sì. sì, e poi anche le borse, non eravamo autorizzati a controllare borse. Quindi le presidesse si potevano portare un intero iMac dentro la borsa, nessuno se ne sarebbe accorto. Nessuno poteva guardare nelle borse, quindi certamente poi non è che potevano cacciare un computer, però la cosa, appena sono entrata insomma nella stanza dove stavano nel secondo turno, quindi stavano facendo il compito, io ho visto subito appena entrata una, sai, queste pergamene, questi fogli tutti piegati ma enorme sul banco di una candidata preside all'ultimo banco. Cioè lei ci sta dicendo le cose che mi fanno rabbrividire, ho la pelle d'oca, sì. Cioè una futura preside portava sì. La pergamena con la cartuccella. Sì. Sì, io allora l'ho presa, ho detto, beh, se non, insomma, la sequestro. Ma qual è l'età media degli aspiranti presidi? Allora, l'età media andava dai 35 ai 55 anni, cioè l'età andava dai 35, c'è una signora, una media di 45, va? Una signora di 50 anni, con sì, il tacco sì. 4, con la calza esatto. contenitiva, esatto. con i capelli, si portava la cartuccella, non è possibile. Sì, aveva una, è stato, ma non è solo lei, comunque io sequestro questa cosa, la cosa più assurda, dico, vabbè, insomma, adesso la metto, poi quando passa il funzionario del provveditorato vedrà lui cosa fare. Insomma, si sparge la voce che ho sequestrato questa cosa, mi chiama il dirigente scolastico e a fianco a questo funzionario del provveditorato mi fanno una cazziata che io come mi ero permessa e che cosa volevo, che intenzioni avevo di far annullare compito e che allora addirittura la prese mi guarda e mi fa adesso capisco lei chi è veramente, com'è fatta dentro. Cioè, vuol dire crudele d'animo, poi bastarda dentro. Sì, che io ero chissà che cosa. E poi il funzionario, il provveditorato, mi fa ma signora, vede, le cose vanno così. Questo è l'andazzo generale. Vale, Costana, questa sua telefonata mi fa veramente vergognare. Io non mi vergogno per nulla, sono totalmente spudorato. Ma io ho iniziato questa puntata facendo il buono della situazione, dicendo è giusto il preside, senza incolpare nessuno. Lei mi dice che al concorso dei presidi fanno peggio di quanto farebbe l'ultimo, il più infame dei borgatari alla maturità. E quindi ma poi la cosa non ho parole. È che non solo questa candidata, quindi io praticamente ho perso potere nei confronti della classe e quindi non, diciamo, cercavo di controllare ma non potevo fare chissà quanto, a meno che non mi fosse, come ero sola, insomma. E poi anche gli altri avevano valigie, libri, tutti, praticamente quasi tutti, non dico tutti, ma quasi tutti si organizzavano. Addirittura una signora di 60 anni, candidata sessantenne, cacciava questi fogliettini, io li prendevo, li appallottolava e lei ne cacciava altri con una frontatezza. Il pannolone infarcito di foglietti. Guardi Rossana, non ho parole, mi ha veramente tolto ogni possibilità di replicare, proprio come Fantozzi quando va a dare agli esami che vecchio si finge giovane. Dobbiamo riflettere su questa realtà che Rossana ci ha aperto oggi. A domani.